Avanti indietro, lei ce l'ha. Allora, buongiorno, grazie dell'invito. Io mi sono, ero quella che nel, io ho lavorato nell'ASL di Alessandria per tanti anni, ed ero quella che i direttori generali che si sono succeduti nel tempo chiamavano per rendere conto di come stava andando la spesa farmaceutica. E non era tanto, non erano rose e fiori, perché per tanti anni, ancora adesso, abbiamo visto che è sempre stata in crescita. Noi ci occupavamo quindi immediatamente, cioè sempre, di parlare con i medici di famiglia, li chiamavamo, facevamo dei corsi, parlavamo con gli ospedalieri, cercavamo di facilitare il dialogo tra i farmacisti, i medici di famiglia e gli specialisti. Cosa non sempre facile, perché sono sempre state due classi abbastanza in attrito tra di loro, che spesso scaricavano le colpe della spesa farmaceutica gli uni sugli altri. Gli specialisti dicevano: i medici di famiglia non si prendono in carico veramente il paziente, lo vedono, poi trascrivono le ricette dei vari specialisti. In realtà dovevano, avrebbero dovuto fare il collettore delle esigenze. E gli specialisti, invece, i medici di famiglia ce l'avevano con gli specialisti, perché erano due categorie che non si sono mai parlate molto. A noi farmacisti era dato il compito, nell'azienda sanitaria, ma non solo ad Alessandria, di parlare, di far parlare, di far colloquiare le due classi di medici. Allora, voi avete ricevuto un opuscolo, adesso farvi vedere, ecco, su cui, ecco, questo è il contesto, su cui ci sono già tanti dati. Per cui non mi dilungherò sui dati, diciamo, perché il tempo è breve. Parliamo un attimo del contesto. Il contesto in cui ci troviamo è, come vedete, ho preparato qualche slide, l'invecchiamento della popolazione, che continua a invecchiare fortunatamente, mentre le risorse nel contempo diminuiscono. D'altra parte i cittadini si informano, fortunatamente, questo è un bene, e vanno dal medico con delle richieste, con delle esigenze. E ci sono evoluzioni scientifiche importanti, la ricerca continua ad andare avanti, escono farmaci molto costosi. Pensate che gli ultimi farmaci antitumorali usciti per patologie, per tumori normali, non tumori rari, costano 5-6 mila euro per scatola, per confezione della terapia di un mese. Quindi quello che io dicevo ai medici di famiglia era: cerchiamo di utilizzare i generici, visto che ne abbiamo parlato prima, proprio perché può essere un sistema questo per risparmiare, per consentire allo Stato, che ha risorse non più limitate come si pensava qualche anno fa, quando le regioni ripianavano i costi delle ASL sempre crescenti. Cerchiamo di utilizzare i generici proprio perché teniamo queste risorse per curare i pazienti che tutti potremmo essere per queste patologie, per questi farmaci che sono così costosi. E poi, ecco, fortunatamente l'uscita dei generici, la scadenza dei brevetti, ha dato una grossa mano alle ASL, allo Stato, perché è l'unica spesa, quella convenzionata, cioè quella attraverso le farmacie, che è diminuita, che è in diminuzione costante. Dicevo, non voglio annoiarvi, ecco, qui si vede come la spesa farmaceutica è costituita. La spesa convenzionata, quella delle farmacie, è una parte enorme, ed è in diminuzione, l'unica, La spesa delle aziende sanitarie è in crescita proprio per questi nuovi, ecco, per esempio il sofosbuvir, questo farmaco, il Sovaldi, che ha citato il dottor Giustetto, la terapia 50.000 euro a testa, è pazzesco, però dà una guarigione, una percentuale di guarigione enorme. Purtroppo non ci può essere al momento attuale l'accesso per tutti, perché il costo è talmente alto, alcuni se la comprano, chi può, ma è pazzesco, 50.000 euro a testa. Possono essere arruolati solo quei pazienti che hanno già uno stato molto grave, una epatite molto avanzata. C'è una spesa che è a carico del cittadino, che anche questa è in crescita, non di molto, e poi una grossa fascia è appunto questa della distribuzione diretta fatta dalle ASL. Ecco, questo farmaco che vi dicevo, solato, viene dato, sono compresse, dal paziente che si reca nel centro dove viene curata l'epatite C e gli viene consegnato il farmaco. Tutti questi canali hanno portato, vedete, questa è la differenza tra il 2015 e il 2014, a un 8% in più di spesa, 7,8%, è tanto. L'unico dato in diminuzione è la spesa convenzionata. La lorda, ve la vedete di questa, è meno 0,7, perché sono stati i generici che hanno permesso questo. La parola generico è una brutta parola, perché dà l'impressione di un farmaco che va bene per tutto, no? Quando si dice generico, nel comune sentire, non è mai qualcosa che è all'opposto di specialistico. In realtà questi farmaci si dovrebbero chiamare equivalenti, perché hanno lo stesso effetto del farmaco brand, del primo, del farmaco rifatto, per cui ricordo non è sbagliato. Il problema, sapete qual è? È il fatto che molto spesso, cioè che è il farmacista che decide sulla base della ricetta quale dare. E quindi succede che questi anziani vanno a casa con scatolette ogni volta diverse, per cui non è la cosa che io dicevo ai medici era cercate di mettete pure, scrivete il farmaco generico, ma indicate la ditta, perché ci sono delle ditte tra l'altro molto buone di generici, ci sono per esempio la Merck, è una ditta che tutti conoscete, è stata citata prima, ha una linea di generici, la Teva, una ditta israeliana che fa farmaci oncologici ottime. Bisognerebbe, quando andate dal farmacista con la ricetta, dire ma perché mi dà questo? Non ha, portarsi magari dietro la scatoletta, mi dia quest'altro, oppure che il medico indichi la ditta del generico, però scrivendo vicino che non, di non sostituire la molecola, la scatola, scusate. Queste sono piccoli accorgimenti. Andiamo oltre. Vabbè, poi qui avevo fatto alcune slide, devo saltare perché il tempo è poco. Ci sono regioni che spendono di più, questa del sud, vedete, e regioni che spendono di meno. La spesa, questa si tratta della spesa pro capite. Il Piemonte va bene, perché se pensate che la media nazionale, e questi sono dati dell'OSMED, dell'Osservatorio dei Medicinali, che fa capo all'AIFA, che si occupa di farmaci in Italia, 134 euro a livello nazionale i primi 9 mesi del 2015, in Piemonte 117, quindi Piemonte non va male, direi che è una delle regioni migliori. Farmaci equivalenti. Ecco, il Servizio Sanitario Nazionale ha l'obbligo di dare cure efficaci di qualità. Il farmaco equivalente è senz'altro un farmaco che va bene e che ci consente di risparmiare. Spesa privata è un pochino aumentato, non stiamo per dilungarci. Ecco, la spesa è molto cresciuta. Del 37,4% sono i farmaci erogati direttamente dalle ASL o con quella distribuzione che si chiama per conto, per cui andate in farmacia e vi fanno arrivare il farmaco il giorno dopo, vi ricordate qualcuno di voi. Sono farmaci per cui la spesa è aumentata tantissimo. La prima voce dei farmaci in distribuzione diretta è appunto la voce del farmaco per l'epatite C. E poi altri farmaci che non sto lì a elencare. Allora, ecco, ci sono alcune problematiche velocemente, che volevo, ecco, scusate. Diciamo. No, al contrario, lo deve puntare nell'altro senso. Ah, devo puntare. No, al contrario però. Ecco, sì. Ecco, la spesa ospedaliera è anche cresciuta, andiamo oltre. No, qui. Ecco, andiamo così. Ecco, problematiche aperte sono il problema dell'aderenza alle terapie. Vedete, qui ci sono riportati alcuni esempi che ci fanno vedere come non tutti i pazienti fanno la terapia in maniera continuativa. Pensate, per esempio, nel secondo caso, per accelerare i tempi, i pazienti che hanno avuto un evento cardiovascolare, un infarto, o che hanno il diabete, hanno necessità massima di farmaci come le statine, perché per loro sono essenziali. Eppure c'è un'aderenza che, come vedete, aumenta nel tempo, perché dal 2013 è aumentata, però non totale. Questo non va bene. L'aderenza deve essere continua. Come d'altra parte ci sono dei casi invece, sono proprio imbranata, ecco, in cui si parla di trattamenti occasionali. Si è visto che alcuni pazienti a cui sono state prescritte per esempio farmaci statini o antipertensivi lo fanno per poco tempo, magari proprio dopo la visita, quando vanno la prima scatoletta, poi hanno qualche disturbo e smettono. Ecco, bisognerebbe diventare più attenti a queste cose. Se la terapia va fatta e concordata col medico, poi va continuata nel tempo. L'inappropriatezza è stata già citata, questo è un discorso da fare al medico. Il medico che deve in qualche modo, è vero, col dialogo col cittadino. Ci sono, per esempio, c'è una categoria di farmaci che magari alcuni di voi assumono regolarmente, che sono gli inibitori di pompa. Gli inibitori di pompa vengono messi in terapia a ogni paziente ricoverato, perché comunque l'inibitore di pompa non si nega a nessuno. In tutti gli ospedali, non so se io conosco soprattutto i nostri a Quincy d'Alessandro, il paziente ricoverato gli si dà la terapia in qualsiasi reparto, vada a finire tranne quelli specialistici di altre specialità, logistica, non penso che aggiungano, perché viene sottoposto a terapia, quindi gli si dà questa pastiglietta in modo tale che non ha problemi, perché non sente disturbi gastroenterici che si hanno facendo più farmaci. Però cosa succede? Che poi questa pastiglia viene mantenuta nel tempo. E queste pastiglie non sono prive di effetti collaterali, perché come vedete possono ridurre, cancellare i sintomi del carcinoma gastrico, provocano osteoporosi, interferiscono con l'assorbimento di altri farmaci, tipo farmaci anticoagulanti, eccetera. Non tutte le molecole allo stesso modo. E cosa succede? Poi dovrebbero essere utilizzati per un piccolo periodo di tempo, però poi la sospensione è balorda, nel senso che bisogna diminuirli pian piano per l'effetto rebound che provocano quando vengono sospesi, per cui alla fine il paziente va avanti per degli anni con questi farmaci, ed è proprio una cosa che non va bene. Bisognerebbe, ecco, questo è importante, che le terapie fossero rivisitate ogni tanto. Chi lo fa? Io direi che dovrebbe farlo lo specialista quando il paziente viene ricoverato, o comunque il medico di famiglia che conosce bene il paziente, dovrebbe conoscerlo. E tante volte si vedono invece persone che fanno per anni terapie, magari il medico di famiglia non lo sa neanche perché gli darò lo specialista, come è stato detto poco fa. Bisognerebbe andare dal medico con l'elenco delle medicine, anche degli integratori, tutto quello che viene preso. Bisogna dialogare, questo sono assolutamente d'accordo, perché ci sono delle spilze altro che 18 farmaci. Mi diceva alcuni medici di famiglia che a volte ci sono degli anziani e tra l'altro se ti scambiano anche con questa questione dei generici. Dice, ma ho scoperto che il marito ha diabete, ma i suoi farmaci li prendeva la moglie, che è ipertesa e viceversa. Pensate che casino. No? Sono cose di tutti i giorni. Allora, che cosa propongo io per finire? Propongo che per ridurre il consumo di dei farmaci si adottino stili di vita senza avere delle ossessioni, però cercando di pian piano tutti i giorni entrare in quest'ordine di idee, cioè avere una sana alimentazione, corretta idratazione, contrastare l'obesità. Vi dico delle cose banali, però non sempre ci si pensa, è più facile affidarsi al farmaco. L'attività fisica regolare, togliere le sigarette se si fuma e essere aderenti alle terapie, quelle che servono. Adesso qui quanto tempo, perché sennò poco perché qui ce ne sono ancora un po', ma facciamo veloci. Sì, no, c'è ancora 5 minuti. Oh, alimentazione come farmaco, vabbè, naturalmente tutti sappiamo che l'alimentazione è fondamentale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari del cancro. Qui ho un po' riportato, lasciamo perdere. Ecco, la piramide alimentare, perché poi le altre slide riprendono un po' la piramide alimentare. Che cos'è? Questa ci fa vedere come dobbiamo vivere, perché non parla solo di alimenti ma anche di movimento. Alla base ci sono le cose che dobbiamo fare sempre, e cioè esercizio fisico, controllo del peso e poi tutto quello che dobbiamo mangiare. Una volta si diceva non bisogna mangiare grassi, tanti anni fa, no, bisogna mangiare i grassi, ma i grassi che fanno bene, i grassi che derivano dalle mandorle, dal consumo delle noci, olio extravergine d'oliva che è un vero e proprio medicamento, poi assumere cereali integrali che aumentano meno la glicemia, frutta e verdura di stagione, pesce al posto della carne. Man mano che si sale ci sono elencate le cose da non fare. Vedete che la carne rossa è la sommità, come anche burro, ce ne hanno raffinati, come farina, bianca, pane, bianco, bevande zuccherate, con cui si assume un sacco di zucchero. E poi qui si ripetono queste diapositive, tutte queste cose che tutti sanno, e cioè di prediligere la cucina mediterranea, pesce azzurro, non pesci grossi, che sono fonti di piombo e di mercurio. E poi gli omega 3, mangiare le noci, il pesce, cercare di prediligere i cereali, per esempio prendere le proteine più dai cereali che dal mondo alimentare, che dalla carne, cereali integrali, legumi più ricchi di proteine, cereali integrali, olio, le fibre, che possono prevenire tantissime patologie. Ecco, l'altra cosa su cui mi soffermerei velocemente, due parole sull'attività fisica, come farmaco, che è in grado di contrastare l'osteoporosi, quindi dieta ricca di calcio e movimento. Il movimento deve essere un movimento contro la forza di gravità, no? Per esempio non serve a niente. Invece fare le scale, il movimento anche nella vita quotidiana, fare le scale, camminare a piedi, è provato scientificamente che mezz'ora di camminata al giorno riduce i sintomi della depressione, quindi bisognerebbe che il medico di famiglia sulle ricette, quando i pazienti si riscrivesse queste cose, sarebbe utilissimo, perché le essere scritte non è una cosa che viene spontanea in medico di famiglia, però può essere utile. In vita fisica, ecco. E poi ancora andare a sole, uscire dall'aria aperta, l'aria aperta perché abbiamo bisogno della vitamina C per fissare il calcio nelle ossa, non mangiare alimenti ricchi di calcio come i formaggi che sono ricchi anche di colesterolo, di grassi, ma scegliere un'acqua minerale ricca di calcio. Non so, per esempio la San Gino, che uno sente, è ricca di calcio, 300 mg per ml. La vitamina D, dicevamo, il caffè, la cioccolata, bisognerebbe non eccedere perché... Ecco, l'obesità aumenta l'incidenza di coronaropatia e di ictus molto, come vedete scritto. Fumo di sigaretta, anche questo, raddoppia il rischio di fratture, malattie cardiovascolari, soprattutto per l'effetto... E gli integratori, l'ideale sarebbe prendere dalla frutta, dalla verdura, anche un po' di vino, il resveratrolo che è contenuto nella buccia dell'uva, i flavonoidi che sono contenuti nelle carote, nella verdura colorata. Ci sono poi degli integratori per l'attività cerebrale, per carità funziona, bisogna sempre avvisare il medico perché hanno degli effetti collaterali, interagiscono con altri farmaci. Quindi per finire, variare i cibi utilizzando prodotti freschi non in scatola che sono pieni di conservanti, quindi di sodio, utilizzare alimenti di origine vegetale, cereali integrali, pesce anziché carne, ridurre l'impiego di grassi, limitare sai la cucina di zuccheri semplici, dolci, il peso, camminare e smettere di fumare. Grazie alla dottoressa Cantù.